Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Torniamo finalmente, dopo quasi un mese di digiuno, ad occuparci oggi di giovani al lavoro all'estero. Torniamo insomma alle origini, dopo aver passato le ultime due settimane a presentarvi le ultimissime novità del format del programma. Oggi vi portiamo negli Stati Uniti, per la precisione in una università d'eccellenza oltreoceano. Ci occuperemo di ricerca, è vero, ma ci concentreremo su un tipo di ricerca che può fare davvero la differenza nella vita delle persone. Al centro della puntata ci saranno due italiani. Nella prossima mezz'ora stabiliremo anche un ponte tra chi se n'è andato ma vuole tenere la porta ben aperta con la penisola e chi invece è tornato e qui ha trasformato la sua ricerca in startup. È davvero un ponte straordinariamente interessante quello che lanciamo oggi tra Boston e Genova. La frase della settimana è copyright del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di fronte alle difficoltà di tante famiglie, di fronte a giovani che non hanno la possibilità di programmare la propria vita perché non trovano lavoro, di fronte a chi lo ha perduto o a chi lo ha ma è sottoretribuito, di fronte a un'ampia area di povertà che non è costituita da un dato statistico ma da numerosi nostri concittadini, occorre rispetto. E quindi un confronto di proposte con contenuti ed elaborazioni adeguate. Così Mattarella, che va osservato, non ha risparmiato neppure una critica feroce ad alcune clamorose falle del sistema Italia. Tra l'altro, nel contesto europeo, proprio l'Italia mostra un evidente ritardo nei settori legati all'economia della conoscenza e dell'innovazione. Si collocano sotto la media comunitaria l'intensità della spesa per ricerca e sviluppo, l'intensità brevettuale, la quota di occupazione nei settori high-tech e quella di occupazione di figure professionali altamente qualificate. A rilevarlo è l'Istat nel rapporto sul benessere equo e sostenibile. Nel 2014 l'incidenza della spesa in ricerca e sviluppo sul PIL è stata pari all'1,38%, in crescita, anche se il livello rimane inferiore al target nazionale definito dagli obiettivi di Europa 2020. Secondo l'OCSE, in Italia la spesa pubblica lorda per ricerca e sviluppo nel 2014 ammontava a 27,7 miliardi di dollari, l'1,3% del PIL contro il 2,38% medio. Eppure avremmo così tanto bisogno di giovani ricercatori con una forte carica innovativa in questo nostro paese. Da un punto di vista scientifico non riuscivo a trovare esattamente quello che mi aspettavo. Fausto Panizzolo, 34 anni, è un ricercatore presso la prestigiosa Università Americana di Harvard nel Massachusetts, dove si occupa di robotica. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Quasi il 70% dei ragazzi si dice disponibile a togliersi dai piedi, per citare una frase infelice del ministro Poletti, della quale si è poi ripetutamente scusato, per studiare o lavorare all'estero. Ad affermarlo un sondaggio realizzato da scuola.net in collaborazione con Radio 24. Daniele Grassucci di scuola.net al microfono di Maria Piera Ceci. Come vedono il futuro i ragazzi che in questo momento sono impegnati nella scelta delle superiori? Come vedono il proprio futuro? Beh, non lo vedono bene o roseo, risentono insomma di tutto quello che è il dibattito sulla disoccupazione giovanile, quindi 7 su 10 temono di non riuscire a trovare lavoro e questo è un po' un dato allarmante se pensiamo che stiamo parlando di 14 anni, e quasi altrettanti sono certi che subito dopo il diploma o la laurea andranno all'estero. Per qualcuno è una possibilità, per altri invece è proprio un qualcosa che si cercherà con tutte le forze. Quasi un giovane su tre ha chiesto lo scorso anno per Natale un sostegno economico per andare all'estero a vivere un'esperienza formativa svolgendo uno stage professionalizzante, quanto emerge dallo studio promosso dall'agenzia Espresso Communication. Tra le mete predilette l'Europa va per la maggiore 33%, con un netto sbilanciamento verso Germania e Regno Unito. A seguire il sogno americano, in forte ascesa di interesse ai paesi asiatici, con la Cina tra le destinazioni più ambite. Un giovane su quattro ha dichiarato di desiderare un viaggio formativo a causa dell'insoddisfazione diffusa che si respira nel nostro paese. E una giovane professionista di età compresa tra i 25 e i 30 anni nel 2015 è riuscito a portare a casa in media 12.000 euro lordi, mentre un suo collega 30-35enne ne ha guadagnati appena 17.000. Questa è la fotografia scattata da ADEP. La condizione di significativo affanno delle nuove generazioni è testimoniata dal confronto con le performance dei professionisti nella fascia anagrafica 55-60 anni. La media di questi ultimi supera i 50.000 euro. Se ne deduce dunque che i lavoratori autonomi 25-35 anni hanno entrate che vanno da un quarto a un terzo del reddito dei colleghi più adulti.

della, diciamo, ospitalità particolare di questo posto. E a Perth resti 4 anni, grandissima esperienza professionale di vita, prima lavori come dottorando, poi come professore a contratto. Di cosa ti sei occupato? Il mio percorso specifico è stato, il mio progetto è stato studiare praticamente la muscolatura di persone affette da insufficienza cardiaca. Nel 2014 ti trasferisci in una delle istituzioni accademiche per eccellenza nel mondo, l'Università di Harvard a Boston, Massachusetts. Come si approda ad Harvard? Qual è stato anche l'impatto in termini di adattamento? Hai cambiato continente? Sì, ho cambiato continente, contrariamente alla scelta di qualche anno fa. L'ho fatto per cercare di tornare un po' più vicino a casa, infatti le distanze si sono dimezzate e anche il tempo, insomma, per tornare in Italia. Ma come si approda? Io sono approdato in maniera molto semplice, nel senso, avevano un opening, avevano un'offerta per una posizione, ho fatto domanda e ho preso posto. Puff, facile, ma fosse così anche in Italia. Attualmente di quale progetto ti occupi, con quali finalità? Allora, al momento stiamo realizzando un esoscheletro basato su tessuti indossabili che possa aiutare le persone a camminare, per dare magari un'idea un po' più precisa al pubblico, o una specie di tuta di Iron Man, per cui le persone indossandola riescono a camminare facendo meno fatica. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Fausto Panizzolo, 34enne ingegnere biomedico e ricercatore di stanza all'Università di Harvard. Una carriera nata in Italia, quella di Fausto, ma decolata in Australia prima del passaggio negli Stati Uniti. Ancora una volta è stata una questione di opportunità a portare Fausto fuori dal nostro paese. Quelle stesse opportunità che da noi troppo spesso mancano o sono nettamente insufficienti. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Piccola nota, a Boston co-gestisci una comunità di italiani di cui ci siamo già occupati in passato, PIB, professionisti italiani a Boston. Chi siete? Qual è un po' l'identikit dell'expat italiano nel Massachusetts? Siamo parte di questa associazione la cui età media, diciamo, è sui 40. Sono tutti immigrati, diciamo, qui subito dopo la laurea, insomma, quindi persone che hanno vissuto in Italia e con radici in Italia, e occupano le professioni più svariate, anche se con una prevalenza dal punto di vista ricerca o scientifico, essendo questa un'area molto fertile per questo motivo. Fausto, per te la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Forse sono un po' di parte, però penso che proprio persone che hanno fatto esperienze in giro per il mondo e soprattutto che hanno visto cose differenti potrebbero essere una grossa risorsa per il nostro paese, per provare a cambiare un po' le cose che non vanno, e personalmente ne conosco tanti. Ci raggiunge ora in linea Jody Saglia, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, nonché startupper. Buon pomeriggio, Jody. Buon pomeriggio a tutti. Con te riparto dalla domanda con cui abbiamo concluso l'intervista a Fausto. L'Italia è un luogo attrattivo dove poter fare ricerca? Sì e no, nel senso che ci sono, tra l'altro ho scoperto poi negli anni, entrando nel mondo della ricerca, ci sono tantissime realtà d'eccellenza che sono di assoluto livello anche a livello internazionale. Ci sono anche tante realtà che purtroppo, insomma, oggi non offrono le opportunità che magari uno riesce a trovare all'estero, però diciamo che in generale siamo forti e lavorandoci un po' a livello di sistema probabilmente possiamo essere molto più competitivi ancora di quanto già siamo. Bene, anche tu hai una storia molto internazionale alle spalle, ti laurei al Politecnico di Torino, poi parti per la Finlandia e per Londra, poi torni, anche se noti, non avevo alcuna intenzione di rientrare, non avevo assolutamente fiducia in questo paese, fino a quel momento mi aveva dato poco o nulla, ricordi? E allora qual è stata la molla che a un certo punto ti ha convinto a rientrare? Quando vai all'estero poi cominci anche ad apprezzare quello che hai lasciato indietro, no? Quindi è risorto anche un po' di italianità vivendo all'estero, e questo è un punto. L'altro punto è in realtà proprio l'opportunità che mi ha offerto l'Istituto Italiano di Tecnologia. Sono arrivato qui nel 2007, che aveva appena cominciato le sue attività, quindi erano pochissime persone, e ho potuto entrare a far parte di un'iniziativa che aveva un altissimo potenziale di crescita, che poteva darmi opportunità di sviluppo che oggettivamente non avrei trovato da altre parti. Ricordiamo anche che è una delle nostre punte d'eccellenza in campo scientifico, l'IIT. Avvio un dottorato tra il King's College di Londra e l'Istituto Italiano di Tecnologia, al termine del quale resti in Liguria come ricercatore. Con gli anni collabori alla costituzione della Rehab Technologies, facility dell'istituto dedicata al trasferimento tecnologico. Soprattutto avvio una tua startup, Movendo Technology. Qual è l'idea alla base? Ma è sostanzialmente è stato, insomma, un po' un caso, davvero un caso della vita, perché ho cominciato col progetto a Londra della tesi di laurea, un progetto su un dispositivo per la riabilitazione della caviglia che era proprio, insomma, agli inizi. Ed è un progetto a cui sono capitato per caso, di cui mi sono innamorato, che poi ho deciso di voler portare avanti con l'ottica di costruire un prodotto, di sviluppare un prodotto che potesse essere messo a disposizione in clinica. E con questo, all'interno del King's e poi dell'attività NIT e con la Rehab Technologies, in realtà il percorso si è articolato molto. Ho incontrato persone che oggi sono i miei soci, diciamo, nell'iniziativa imprenditoriale, con cui ho cominciato a condividere questo percorso e ci ha portato a creare questa nuova azienda. Chissà che magari non si sviluppi anche una collaborazione tra voi due, tra Fausto e Jody. Jody, come sta andando in Italia? Come fare gli imprenditori innovativi? Diciamo che non è facilissimo in Italia, perché la burocrazia non è proprio, diciamo, d'aiuto in generale, però si può fare, è possibile, si può fare. Non ci credevo qualche anno fa, ma in realtà ci sono anche imprenditori che sono disposti a investire, a sostenere iniziative interessanti e ad alto potenziale di crescita, e anche il sistema del capitale di rischio sta crescendo molto, quindi in realtà è possibile. È più difficile rispetto a un ambiente anglosassone americano, ma è possibile. Bocca al lupo a Jody Saglia. E domanda di rito per Fausto Panizzolo: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente consiglierei di andare assolutamente per fare un'esperienza, più che per come via di uscita, per fare un'esperienza soprattutto da un punto di vista personale, prima ancora che professionale. E poi la vita riserva sempre un sacco di sorprese, e quindi di vedere un po' cosa salta fuori. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi nuove notizie dall'Agenzia Europea per l'Impiego Eures. Ogni 2 settimane vi forniamo dritte utili per andare a lavorare in Europa. Laura Robustini di Eures Italia fa il punto. C'è una profonda collaborazione, una stretta collaborazione tra l'Italia e la Germania, per cui la Germania si è impegnata tramite il servizio Eures una serie di offerte di lavoro che sono rappresentate da offerte un po' in tutti i settori, sia offerte che sono legate alle figure professionali classiche come, non so, medico, infermiere, sia offerte che possono essere anche di carattere stagionale oppure legate appunto ai vari settori tipo elettricista, eccetera, eccetera. L'interessante appunto della collaborazione con la Germania è che la Germania fa anche delle previsioni a lungo termine, per quindi propone la ricerca di figure professionali che prevede che mancheranno magari dall'anno prossimo, fra 2 anni, dal mercato. Facciamo l'esempio per esempio dei farmacisti: loro prevedono che i baby boomer andranno in pensione, quindi ci sarà un'importante richiesta di farmacisti per la Germania. Abbiamo lavorato moltissimo anche per l'apprendistato, quindi abbiamo creato dei progetti di apprendistato con la Germania e molti ragazzi ora sono là e studiano. Parlavamo di possibilità di lavoro anche stagionali, per esempio a Milano ci sarà una selezione il 16 febbraio per un parco di divertimenti di Lipsia. In questo caso le figure professionali sono legate al settore della ristorazione, oppure possono essere persone che non hanno esperienza lavorativa ma che vogliono impegnarsi nella gestione appunto dei tavoli piuttosto che la cassa. In questo caso l'azienda propone una ricerca della lingua tedesca di livello molto basso, A2 B1. Potrebbe essere una bella occasione per tutti per incrementare la competenza del tedesco. Le modalità di adesione al reclutamento sono esposte nel sito di AMPAL, il cui indirizzo è www.ampal.gov.it. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi spazio, come tutti gli ultimi sabati del mese, alle vostre lettere, che inviate settimanalmente a giovanitalenti@radio24.it. Non smettete di scriverci, perché noi continueremo a darvi voce. Vogliamo sapere la vostra sul tema dell'emigrazione dei nostri migliori talenti. Un'occasione buona per levarceli dai piedi, come ha cinicamente affermato il ministro Poletti un mese fa, o un problema ben più grave che non riusciamo a risolvere? La lettera della nostra ascoltatrice Claudia riporta in auge il tema delle famiglie dei giovani con la valigia, prendendo spunto da una delle nostre ultime puntate. Grazie per aver affrontato il discorso delle famiglie con i figli all'estero. Non si parla mai del peso emotivo di tali scelte, mentre il nostro numero aumenta. Mio figlio ha 18 anni, si è trasferito a Monaco per studiare fisica. Quando ci comunicò che avrebbe scelto questa facoltà e che avrebbe desiderato diventare ricercatore, ci fu immediatamente chiaro che non sarebbe rimasto in Italia. Come lei nelle sue trasmissioni ribadisce, anche noi pensiamo che qui non ci siano prospettive, soprattutto per chi non ha un lavoro ereditabile da genitori professionisti o agganci di altro genere. Si guardino gli alberi genealogici con gli stessi cognomi nelle università, nel giornalismo, nella politica e nelle istituzioni in genere. In Germania l'università non si paga, i libri non si comprano perché li si prende in prestito nella biblioteca della propria facoltà. Ci sono sostegni economici di ogni genere per gli studenti, il conto corrente è gratuito, ma soprattutto chi ce la vuole fare da solo in base al proprio valore ce la fa. Chi sceglie una facoltà scientifica ed è orientato alla ricerca sa che la propria passione potrà avere spazio. Profonda è la nostra amarezza nei confronti di uno Stato incapace di curare i propri giovani con le dovute misure culturali ed economiche, che non siano i ridicoli 500 euro ai diciottenni e quindi di avere un progetto serio, non solo per il loro futuro, ma per quello di noi tutti. Ovviamente ci auguriamo che la situazione cambi, ma intanto i ragazzi non possono permettersi di attendere chissà quanti anni. Un motivo per restare o tornare. In tema di attrazione di talenti, l'Università Ca' Foscari ha annunciato l'esenzione dalle tasse per 100 studenti internazionali selezionati secondo criteri di qualità. I migliori 100 avranno la possibilità di studiare a Ca' Foscari iscrivendosi a uno dei corsi, in particolare a quelli erogati in lingua inglese. Le esenzioni saranno applicate alle tasse e ai contributi dovuti all'Ateneo per il primo anno di iscrizione. Sempre Ca' Foscari ha lanciato una call internazionale per selezionare il direttore che sarà incaricato di sviluppare Science Gallery Venice. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche denunce. Per mettervi in contatto con noi è semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. La novità a partire da quest'anno, lo ricordiamo, è che cerchiamo non solamente storie di under 40 espatriati, ma anche di under 40 controesodati nella penisola dopo anni all'estero, di under 40 stranieri al lavoro in Italia e di giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, Giovani Talenti, allora è la vostra trasmissione. E per questo vi invitiamo a candidarvi iscrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.